Ma l'anno scivolò verso la primavera e i salici cominciarono a coprirsi leggermente di verde e boccioli rosa apparvero sui peschi e Wang Lung non aveva ancora trovato quella che cercava per suo figlio. La primavera arrivò con lunghe, calde giornate profumate dai pruni e dai ciliegi in fiore. Le foglie sui salici si aprirono allungandosi e gli alberi inverdirono e la terra divenne umida e fumante e gravida del raccolto. E il figlio maggiore di Wang Lung cambiò ad un tratto e cessò di essere un bambino. Divenne capriccioso e irritabile, si rifiutava di mangiare questo e quello e i libri lo annoiavano e Wang Lung si spaventò e non sapeva cosa fare e volle rivolgersi a un dottore. Non c'era possibilità di modificare la condizione del ragazzo, se il padre infatti gli diceva in tutti i modi, tranne che con le moine, mangia la buona carne e il riso. Il ragazzo diventava ostinato e malinconico e se Wang Lung si arrabbiava, lui scoppiava in lacrime e fuggiva dalla stanza. Wang Lung era sopraffatto dalla sorpresa e non capiva, ma correva dietro al ragazzo e gli diceva con tutta la gentilezza di cui era capace: «Sono tuo padre e adesso dimmi cosa c'è nel tuo cuore». Ma il ragazzo singhiozzava soltanto e scuoteva violentemente la testa. Sviluppò inoltre un'antipatia verso il suo vecchio maestro e al mattino non voleva alzarsi dal letto e andare a scuola, a meno che Wang Lung non lo sgridasse o addirittura lo picchiasse. Poi usciva accigliato e a volte passava giornate intere girovagando per le strade della città e Wang Lung veniva a saperlo solo la sera, quando il minore diceva con malizia: «Il fratello maggiore oggi non è stato a scuola». Wang Lung si arrabbiava con lui e gli gridava: «Devo spendere del buon argento per niente!» E nella sua rabbia si gettava su di lui con un bastone di bambù e lo picchiava fin quando Olan, la madre del ragazzo, lo sentiva e accorreva dalla cucina e si metteva tra il figlio e il padre, così che i colpi grandinavano su di lei, nonostante Wang Lung si muovesse di qua e di là per colpire il figlio. La cosa strana era che mentre il ragazzo poteva scoppiare a piangere per un rimprovero da poco, sopportava i colpi di bambù senza emettere un suono, la faccia scolpita e pallida come una statua, e Wang Lung non capiva, benché ci pensasse giorno e notte. Ci stava pensando una sera, dopo aver consumato la cena, perché quel giorno aveva picchiato il figlio maggiore che non era andato a scuola, e mentre lui pensava, Olan entrò nella stanza. Entrò in silenzio e si fermò davanti a Wang Lung e lui vide che c'era qualcosa che voleva dire. Allora si rivolse a lei: «Parla, cosa c'è, madre di mio figlio?» E lei disse: «È inutile che picchi così il ragazzo. Ho visto succedere lo stesso ai giovani signori nelle corti della grande casa. Diventavano malinconici e allora l'anziano signore trovava per loro delle schiave, se non se l'erano già trovate da soli, e la cosa passava subito». «Ma non deve essere per forza così», ribatté Wang Lung. «Da ragazzo io non ero malinconico e non avevo questi attacchi di pianto e di cattivo umore e non avevo nemmeno schiave». Olan aspettò e poi rispose lentamente: «L'ho visto succedere solo ai giovani signori. Tu lavoravi sulla terra, ma lui è come un giovane signore, se ne sta in casa senza far niente». Wang Lung era sorpreso, perché dopo aver riflettuto un po', riconosceva del vero nelle sue parole. Era vero che all'epoca in cui era ragazzo non aveva tempo per la malinconia, perché doveva alzarsi all'alba per il bue e uscire con l'aratro e la zappa, e all'epoca del raccolto doveva lavorare fino a spezzarsi la schiena, e se gli veniva da piangere poteva farlo perché nessuno lo sentiva, e non poteva correre via come suo figlio correva via dalla scuola. Perché se l'avesse fatto non avrebbe avuto niente da mangiare al ritorno, e quindi era costretto a lavorare. Ricordò tutto questo e si disse: «Ma mio figlio non è così. È più delicato di me alla sua età. Il suo padre è ricco, il mio era povero, e non c'è bisogno che fatichi nei campi perché io ho i miei braccianti, e poi non si può prendere un letterato come mio figlio e metterlo ad arare». E dentro di sé era orgoglioso di avere un figlio così e disse a Olan: «Beh, se è come un giovane signore, questa è un'altra faccenda, ma non posso comprargli una schiava. Lo fidanzerò e lo sposeremo presto, è quel che bisogna fare». Poi si alzò e andò nella corte interna. 23. Adesso l'otto, vedendo Wang Lung molto preoccupato e impegnato da altre cose che non erano la sua bellezza, mise il broncio e disse: «Se avessi saputo che meno di un anno dopo mi avresti guardata senza neanche vedermi, sarei rimasta nella casa da te». E parlando voltò la testa e lo osservò con la coda dell'occhio, tanto che lui si mise a ridere, prese la sua mano e se la portò al viso e annusò il suo profumo e rispose: Beh, un uomo non può pensare sempre al gioiello che ha cucito sulla giacca, ma se si perdesse non riuscirebbe a tollerarlo. In questi giorni penso al mio figlio maggiore e a come il desiderio fa irrequieto il suo sangue, e bisogna sposarlo e non so come trovare quella che dovrò sposare. Non voglio una delle figlie dei contadini del villaggio e non è nemmeno opportuno visto che portiamo tutti il nome Wang, ma in città non conosco abbastanza bene nessuno da potergli dire questo è mio figlio e questa è tua figlia. E non mi va di andare da una che per mestiere combina matrimoni, per paura che abbia qualche accordo con chi ha una figlia storpia o ritardata. E siccome il figlio maggiore di Wang Lung si era fatto alto e attraente nella sua giovane virilità, Loto lo guardava con favore ed era interessata a quel che il padre le aveva raccontato e riflettendo disse: C'era un uomo che veniva da me alla grande casa da te e parlava spesso di sua figlia perché diceva che mi assomigliava. Era piccola e fine, ma era ancora una bambina, tanto che mi diceva: Ti amo con uno strano senso di disagio, come se tu fossi mia figlia. Le assomigli troppo e questo mi preoccupa perché è contro la legge. E per questa ragione, anche se era innamoratissimo di me, andava da una grande ragazza coi capelli rossi chiamate Fiori di Melograno. Che genere di uomo era? Chiese Wang Lung. Era un bravo uomo, il suo argento era sempre pronto e non prometteva mai senza poi pagare. Gli auguravamo tutto il meglio perché non era uno che lesinava e se una ragazza a volte era stanca lui non sbraitava, come certi facevano dicendo che l'avevano imbrogliato, ma parlava sempre cortese come un principe o uno appartenente a una casa nobile e istruita. Ecco, qui c'è l'argento, riposa bambina mia finché l'amore tornerà a fiorire. Parlava con noi molto gentilmente. E Loto rimase assorta fin quando Wang Lung, impaziente, le disse di riscuotersi perché non gli piaceva che pensasse alla sua vecchia vita. Di quali affari si occupava allora con tutto quell'argento? E lei rispose: Non lo so, ma penso che fosse il padrone di un mercato del grano. Chiederò a Cucù che sa tutto sugli uomini e i loro soldi. Poi batté le mani e Cucù arrivò di corsa dalla cucina, gli zigomi alti e il naso arrossati dalla vicinanza del fuoco. E Loto le chiese: Chi era quell'uomo grande, grosso e di bell'aspetto che veniva da me e poi da Fiore di Melograno, perché io assomigliavo alla sua figlioletta, tanto che la cosa lo turbava anche se era innamorato più di me. E Cucù rispose subito: Ah, era Liu, il mercante di grano, che brava persona! Mi metteva in mano dell'argento ogni volta che mi vedeva. Dov'è il suo mercato? Chiese Wang Lung, anche se era inutile, erano chiacchiere di donne e non avrebbero portato a niente. Nella via del Ponte di Pietra, disse Cucù. Ma prima che avesse finito di pronunciare quelle parole, Wang Lung batté le mani contento e disse: Ma è dove vendo il mio grano? Ed è un fatto propizio e sicuramente si potrà fare. E per la prima volta sentì risvegliarsi il suo interesse perché gli sembrava una coincidenza fortunata poter sposare suo figlio con la figlia dell'uomo che comprava il suo grano. Quando c'era una cosa da fare, Cucù ci sentiva l'odore dei soldi come un ratto sente l'odore del grasso. Allora si pulì le mani sul grembiule e disse: Sono pronta a servire il padrone. Wang Lung guardò dubbioso la sua faccia astuta, ma Loto disse allegramente: Ah, questo è vero, Cucù andrà a chiedere di Liu. Lui la conosce bene, la cosa si può fare perché Cucù è abbastanza scaltra e se tutto sarà fatto bene le spetterà il compenso per aver arrangiato il matrimonio. Oh, ci riuscirò! Disse Cucù con entusiasmo e rise all'idea dell'argento sul palmo della sua mano. Poi si slegò il grembiule dalla vita e disse indaffarata: Andrò subito perché la carne è pronta e deve essere solo cotta e le verdure sono lavate. Ma Wang Lung non aveva riflettuto a sufficienza sulla questione, non voleva decidere così in fretta ed esclamò: No, non ho ancora deciso niente, devo pensarci per qualche giorno e ti dirò cosa ne penso. Ma le donne erano impazienti, Cucù per l'argento e Loto perché era una cosa nuova e si sarebbe divertita a seguire la vicenda. Ma Wang Lung andò via dicendo: No, è mio figlio e aspetterò. E avrebbe potuto aspettare così per molti giorni, pensando a questo o a quello, se un mattino presto il ragazzo, il figlio maggiore, non fosse tornato a casa all'alba con la faccia rossa e accesa per il vino, l'alito puzzolente e il passo incerto. Wang Lung sentì qualcuno inciampare nella corte e corse fuori per vedere chi fosse. Il ragazzo si sentì male e vomitò davanti a lui perché non era abituato a bere altro che non fosse il vino leggero e pallido fatto del loro riso fermentato e così cadde e giacque a terra nel suo vomito come un cane. Wang Lung era spaventato e chiamò Olan e insieme sollevarono il ragazzo e Olan lo lavò e lo mise sul letto nella propria stanza. E prima di aver finito di sistemarlo, il ragazzo già dormiva, pesante come un morto e senza poter rispondere alle domande di suo padre. Allora, Wang Lung andò nella stanza dove i due ragazzi dormivano insieme e il più piccolo sbadigliava e si stirava, legando nel frattempo i libri in un telo quadrato per portarli a scuola. E Wang Lung gli chiese: «Il tuo fratello maggiore non è venuto a dormire insieme a te ieri notte?» E il ragazzo rispose riluttante: «No». C'era un po' di paura nel suo sguardo e vedendolo Wang Lung esclamò bruscamente: «E dove è andato?» E poiché il ragazzo non rispondeva, lo prese per il collo e lo scosse e gridò: «Adesso dimmi tutto, piccolo cane!» Il ragazzo era spaventato e scoppiò in singhiozzi e pianti dicendo: «Fratello maggiore mi ha detto di non dirti niente, che mi avrebbe fatto male e bruciato con un ago caldo se te lo dicevo e che se non te lo dicevo mi avrebbe dato un centesimo!» E Wang Lung, fuori di sé per questo, gridò: «Dire cosa? O vuoi morire?» Il ragazzo si guardò attorno e disse disperatamente, vedendo che suo padre l'avrebbe strozzato se non avesse risposto: «È stato fuori per 3 notti intere, ma cosa fa non lo so, so solo che va col figlio di tuo zio, nostro cugino.» Allora Wang Lung tolse la mano dal collo del ragazzo e lo spinse di lato e si diresse verso le stanze dello zio. E là trovò il figlio dello zio, la faccia rossa e ardente per il vino, proprio come suo figlio, ma più saldo sulle gambe perché era più grande e abituato alle maniere degli uomini. Wang Lung gli gridò: «Dove hai portato mio figlio?» E il ragazzo lo guardò sogghignando e disse: «Ah, il figlio di mio cugino non ha bisogno di essere portato da nessuno, può andare da solo.» Ma Wang Lung ripeté la domanda e questa volta pensò che avrebbe ammazzato il figlio dello zio, quella faccia spudorata da farabutto, e disse con voce terribile: «Dove è stato mio figlio ieri notte?» Allora il tono della sua voce spaventò il giovane, che rispose con astio e riluttanza, abbassando gli occhi impudenti: «Era in casa della puttana che vive nella corte, che un tempo apparteneva alla grande casa.» Sentendo questo, Wang Lung mandò un profondo gemito, perché la puttana era nota per ricevere molti uomini e quelli che andavano da lei erano uomini poveri o comuni, perché non era più giovane ed era pronta a dare tanto per pochi soldi. Senza nemmeno fermarsi per mangiare, uscì dal portone per incamminarsi sui campi, per una volta senza vedere nulla di quel che cresceva sulla sua terra, e non guardò come prometteva il raccolto, a causa dei guai che suo figlio gli procurava. Proseguì con gli occhi fissi dentro di sé e attraversò la porta delle mura che circondavano la città ed entrò nella casa che era stata grande. I pesanti battenti adesso erano spalancati e nessuno mai li chiudeva sui loro grossi cardini di ferro, perché in quei tempi chiunque volesse poteva entrare e uscire. E Wang Lung entrò. Le corti e le stanze erano piene di gente comune che affittava le stanze, una famiglia in ogni stanza. Il posto era sporco e i vecchi pini erano stati abbattuti e quelli ancora in piedi stavano morendo e le vasche nelle corti erano intasate di rifiuti. Ma lui non vide nulla di tutto questo. Si fermò nella corte della prima casa e gridò: «Dov'è la donna di nome Yang, la puttana?» Seduta su uno sgabello a 3 piedi, una donna stava cucendo la suola di una scarpa e sollevò la testa e fece segno verso una porta laterale che si apriva sulla corte e poi riprese a cucire, come se molte volte gli uomini le avessero fatto quella domanda. Wang Lung andò alla porta e vi batté, e una voce stizzita rispose: «Vattene adesso, per questa notte ho finito e ho bisogno di dormire perché lavoro tutta la notte io.» Ma lui bussò ancora e la voce gridò: «Chi è?» Wang Lung non rispose, ma bussò un'altra volta ancora perché era deciso a entrare a tutti i costi, e alla fine sentì un rumore di passi strascicati e una donna aprì la porta. Una donna decisamente non più giovane, con il viso stanco e cascante, le labbra spesse e il rozzo belletto bianco sulla fronte, le labbra e le guance ancora imbrattate di rosso. Lo guardò e disse con voce aspra: «Fino a stasera non posso, e vieni pure presto questa sera. Ma adesso devo dormire.» Wang Lung però la interruppe sgarbatamente perché la sua vista lo disgustava e non sopportava il pensiero di suo figlio in quel luogo e disse: «Non è per me, io non ho bisogno di una come te, è per mio figlio.» E all'improvviso sentì nella gola un groppo di pianto per suo figlio. Allora la donna chiese: «Beh, in che senso per tuo figlio?» E Wang Lung rispose, e la sua voce tremava: «È stato qui la notte scorsa.» «Oh! Molti figli di uomini sono stati qui la notte scorsa», replicò la donna, «e non so qual è il tuo.» Allora Wang Lung disse, quasi supplicandola: prova a pensarci, un ragazzo piccolo e snello, alto per la sua età, ma non ancora un uomo. Non immaginavo che potesse avere il coraggio di provare una donna. E lei, ricordandosi, rispose: ah, erano in due, e uno era giovane, col naso rivolto in punta verso il cielo, e l'aria di quello che sa tutto, e il cappello su un orecchio. E l'altro, come dici, un ragazzino alto con una gran voglia di essere un uomo. E Wan Lung disse: sì, è lui, quello è mio figlio. E cosa c'è con tuo figlio? Chiese la donna. Allora Wan Lung disse con sincerità: questo. Se dovesse venire ancora, mandalo via. Digli che tu vuoi solo uomini adulti. Di quello che vuoi, ma per ogni volta che lo mandi via, io ti darò due volte il tuo compenso in argento. La donna scoppiò in una risata leggera e disse con improvviso buon umore: e chi non direbbe di sì? Ah, essere pagati per non lavorare. E anch'io quindi dico sì. È anche vero che mi piacciono gli uomini e i ragazzini danno poco piacere. E parlando, fece cenno a Wan Lung col capo e lo guardò di traverso, e la faccia volgare di lei lo disgustò tanto da fargli dire in fretta: e allora che sia così. Si girò velocemente e si incamminò verso casa, e mentre camminava continuò a sputare per liberarsi dal disgusto che gli procurava il ricordo della donna. Quel giorno perciò disse a Cucù: sia come dici, vai dal mercante di grano e sistema la faccenda, fai che la dote sia buona ma non troppo grande se la ragazza va bene e se la cosa si può organizzare. Dopo aver detto questo, a Cucù tornò nella stanza e si sedette accanto al figlio che dormiva e si mise a rimuginare vedendo là il ragazzo così bello e giovane e vide il viso tranquillo, addormentato e liscio nella sua giovinezza. Poi, pensando alla donna stanca con la faccia imbellettata e le labbra spesse, il suo cuore si gonfiò per il disgusto e la rabbia e sedette là mormorando a se stesso. E mentre sedeva, Olan venne e rimase a guardare il ragazzo e lei vide il sudore limpido sulla sua pelle. E portò acqua calda e aceto con cui gli pulì il sudore, come si faceva con i giovani signori nella grande casa quando bevevano troppo. Poi, vedendo il delicato viso infantile e il sonno ubriaco che persino l'acqua non riusciva a scuotere, Wang Lung si alzò e pieno di rabbia andò nella stanza dello zio, dimenticando che era il fratello di suo padre, e pensando solo che quell'uomo era il padre del giovane ozioso e insolente che aveva rovinato il suo bel figlio, ed entrando gridò: ho ospitato un nido ingrato di serpi e mi hanno morsicato. Suo zio sedeva chino su un tavolo a mangiare la sua colazione perché non si alzava mai prima di mezzogiorno, sapendo che non aveva nessun lavoro da fare, e a quelle parole levò lo sguardo e disse pigramente: eh? Come? Allora Wang Lung, con voce quasi strozzata, gli disse cos'era successo, ma suo zio rise soltanto e disse: beh, tu puoi impedire a un ragazzo di diventare un uomo? E puoi tenere lontano un giovane cane da una cagna randagia? Quando Wang Lung lo sentì ridere, gli venne in mente tutto quello che aveva sopportato a causa di suo zio in un arco di tempo pieno di eventi, come molto tempo prima suo zio avesse cercato di costringerlo a vendere la sua terra, e come vivessero lì in tre, mangiando e bevendo e nell'ozio, e come sua moglie mangiasse i cibi costosi che Cucù comprava per Loto, e adesso come il figlio di suo zio avesse rovinato il suo bel ragazzo, e così si morse la lingua fra i denti e disse: fuori! Fuori adesso dalla mia casa, tu e i tuoi, da questo momento non ci sarà più riso per nessuno di voi, e piuttosto che ospitarvi brucerò la casa, voi che persino nell'ozio non avete nessuna gratitudine. Ma suo zio restava seduto e continuava a mangiare, ora da una ciotola, ora dall'altra. E Wang Lung si sentiva ribollire il sangue, e vedendo che lo zio non gli prestava ascolto, fece un passo avanti col braccio alzato. Allora lo zio si girò e disse: mandami via se hai il coraggio. E quando Wang Lung cominciò a balbettare, senza capire: beh, e cosa? Beh, e cosa? Suo zio aprì la giacca e gli mostrò quel che teneva a contatto con la fodera. A quel punto Wang Lung impietrì nel vedere una barba finta di peli rossi e una pezza di stoffa rossa e guardò fisso quelle due cose. La rabbia gli scolò via come acqua e cominciò a tremare perché non aveva più forza. Quelle cose, la barba rossa e la pezza di stoffa rossa, erano segno e simbolo di una banda di briganti che vivevano e predavano in direzione nord-ovest e che avevano bruciato molte case e portato via le donne, e i buoni contadini li avevano legati con delle corde sulla soglia di casa, ed erano stati poi trovati il giorno dopo in preda al delirio se erano ancora vivi o bruciati e croccanti come carne arrostita. s'erano morti. E Wan Lung continuò a fissare quelle cose e gli occhi gli strabuzzavano dalle orbite. Poi si voltò e se ne andò senza una parola. E mentre camminava, sentì la risata sussurrata dello zio chino di nuovo sulla sua ciotola di riso. Adesso Wang Lung si ritrovò in una situazione disperata come non aveva mai immaginato. Suo zio andava e veniva come prima, sogghignando un po' sotto gli sparsi e radi peli della barba grigia, i vestiti avvolti come sempre con negligenza intorno al corpo, e Wang Lung sudava freddo quando lo vedeva, ma non osava dire niente se non parole cortesi per paura di quel che suo zio avrebbe potuto fargli. Era vero che durante tutti gli anni della sua prosperità, e specialmente quando i raccolti erano mancati o erano stati molto scarsi e altri uomini erano morti di fame con i loro figli, i banditi non erano mai venuti nella sua casa e nelle sue terre, anche se molte volte aveva avuto paura, tanto da sbarrare con forza le porte per la notte. Fino all'estate del suo amore aveva sempre indossato abiti grossolani, cercando di non mostrare la ricchezza. E se fra la gente del villaggio gli capitava di sentire storie di saccheggi, tornava a casa e dormiva in maniera intermittente tendendo l'orecchio per captare i suoni della notte. Ma i banditi non entrarono mai nella sua casa e lui divenne imprudente e audace, convinto di essere protetto dal cielo e fortunato per destino, e cominciò a trascurare qualsiasi cosa, persino l'incenso agli dèi, visto che erano buoni con lui anche senza, e non pensava a niente se non ai suoi affari e a quelli della terra. Ma ora all'improvviso capì perché era stato al sicuro e perché lo sarebbe stato fin quando avesse nutrito i tre della famiglia di suo zio. Pensando a questo, il suo corpo sudò di un sudore abbondante e freddo e non ebbe il coraggio di raccontare a nessuno cosa lo zio nascondesse in petto. Ma allo zio non disse più che doveva andarsene. E alla moglie dello zio disse con tutta la premura che riusciva a raccogliere: «Mangia quello che vuoi nelle corti interne, ecco qui un po' d'argento da spendere». E al figlio dello zio disse, sebbene nel dirlo lo stomaco gli salisse in gola: «Eccoti un po' d'argento perché ai giovani piace giocare». Ma quanto al proprio figlio, Wang Lung lo controllava e non gli permetteva di lasciare le corti dopo il tramonto, anche se il ragazzo si infuriava e faceva il pazzo e schiaffeggiava i piccoli per niente, spinto solo dal suo malumore. Così Wang Lung era assediato dai suoi problemi.